Radio Wombat. Otto hertz. Sono tornato, eccoci. Buonasera ascoltatori, buonasera. Vi parlo da questi giorni appunto di quarantena che ormai tutti state vivendo. Al di là di questo, no, era importante un attimo dirvi di questo appuntamento e anche del prossimo, di quello che ascolterete su 8 Hertz, perché sono due live di quattro band. Questa settimana ve ne faccio sentire due, di appunto Dai Dai e Al Mustaqil, che hanno suonato venerdì 10 gennaio, suonarono venerdì 10 gennaio al CSA Next Emerson a Firenze. La settimana prossima invece vi farò sentire i Puntormo e i Trema, che hanno sempre suonato nella stessa serata. È stato tutto registrato, quindi ho pensato di mandarvi un po' le cose che sono successe, ecco, visto che sono stati dei bei concerti di tutti e quattro, diciamo, i progetti o le One Man Band. Stasera sì, appunto, sono One Man Band, perché ascolterete prima Dai Dai e poi Al Mustaqil. Ve li presento. Dai Dai è il progetto sonoro di Bruso, che i più lo conosceranno come fumettista e disegnatore, insomma artista visivo, diciamo. E questa è la sua, diciamo, poetica sonora. È bello perché nel suo Bandcamp, che si chiama bruciobarn.bandcamp.com, il genere che ha scritto è filosofia spicciola per sentito dire, che mi sembra geniale. E fa un live con la drum machine, la chitarra elettrica e voci tratte da film, documentari e pubblicità, insomma. Vedetevi quello che fa via via sul Bandcamp. Tra l'altro è tutto scaricabile e ascoltabile gratuitamente. Per cui, insomma, la prima parte del live sarà questa. La seconda invece del live di Al Mustaqil, che è un progetto nuovo, uscito da poco il disco di Jacopo Andreini, che appunto è nella scena indipendente ormai è un nome grosso. Ha suonato con tanta gente, da Tolle e McDonald's a Sferlazzo, agli Enfants Rouge, insomma tantissimi, a Harrington de Dioniso, tanti, più che altro la batteria, ma sa suonare praticamente tutto, la chitarra, il basso, il sax. Questo disco solista suo, appunto, si chiama Al Mustaqil, è quello che ha suonato all'Emerson dal vivo, tra le prime volte che l'ha suonato al vivo, diciamo. È un esperimento riuscitissimo, che mixa vari generi tra i più disparati in un melting pot di suoni, timbriche, colori, diciamo, come dicevo, una bastardizzazione di vari generi, tra cui anche il rebetico, che è una musica tradizionale greca, e poi il punk, l'elettronica, il metal. Insomma, c'è un po' veramente di tutto, e lo ascolterete appunto dopo il live di Dai Dai. Dai Dai è scritto Die, insomma, cioè doppio gioco. È anche un disco politico, perché in realtà è connesso a un po' quello che succede intorno ai porti del Mediterraneo e del Medio Oriente, per cui ci sono anche dei field recording di robe abbastanza pesanti, insomma, che succedono. Per cui ascoltatevi bene il live. Tra l'altro li cito tutti all'interno del live, che ha una componente elettronica, appunto perché non può suonare tutto dal vivo, così come all'interno del disco ci ha suonato Hilary Binder alla voce, Christos Barbas Alnei e Valentina Pallanuova Alnei, Amy Daniel al clarinetto, Raphael Borda al violino, Raphael Anker al levi, sono tutti strumenti diciamo tradizionali, Giulio Martino al basso elettrico. Quindi buon ascolto, ascoltate Radio Wombat ora più che mai, che cerchiamo in qualche modo di proporvi sempre qualcosa, anche solo per passare il tempo, che purtroppo è delimitato nelle mura di casa, e anche per pensare e anche per essere informati su quello che via via succede in città. Ah, dimenticavo, scusatemi, il disco di Al-Mustaqil, così come la roba, tanta roba di Jacopo Andrini, le varie collaborazioni che ha fatto, non tutte ovviamente, le potete trovare sul suo Bandcamp, che si chiama Afoforo Music Club, con due C, Music Club, .bandcamp.com. Quindi ecco, date anche una bella sfogliata al suo Bandcamp, che è ben fornito, e basta, scusatemi, mi ero scordato questo grande dettaglio. A presto. The insecurity, the bomb, all uomini come statue vegliano affinché la fiamma della patria mai si spegne. Yeah. staremmo subendo perdite modeste e accettabili fra i civili, mentre il nemico riporterebbe perdite dalle quali non potrebbe risollevarsi. Il gamba di porta l'aereo così basso, è uno spettacolo gigante come picchi in 42 volam, con i tanti scarico da prostigere o che vive, ma il Shroom ce lo può fare, sì, porco diavolo, se è quello, lui. Sulla rotta balcanica c'è anche chi tenta il viaggio nascosto e non treno, ci sentiamo. Il mondo ti porta nei campi di lavoro, si viaggia nei carri bestiame e si traversano stelle ghiacciate per giorni e giorni senza vedere anima viva. Ci si scatta uno con l'altro. Thank you. Corporation for the Radio Wombat. Yeah. prossimo pezzo è dedicato a tutti i miei, i tuoi e i vostri amici che sono in prigione, un pezzo di 100 anni fa. Financer les ONG afin d'encourager les jeunes. Ils initient aux droits humains et en parallèle, ils imposent un système merdique pour avoir le visa. Ils nous empêchent, nous les jeunes, de voir le monde qui est le nôtre. Parmi les choses insensées que j'ai vues et que je souhaite dénoncer, c'est la volonté de quelques politiciens allemands de classer la Tunisie, le Maroc et l'Algérie comme pays safe pour les personnes LGBT. Comme si l'homosexualité n'est pas criminalisée dans mon pays. Et cette volonté a vu le jour dans le cadre d'un système mondial fasciste qui est réellement contre l'immigration et l'asile. in realtà una band, in questa band ci sono un sacco di persone che io mi porto dietro sulle spalle, a parte me stesso che suona la batteria, i sinti, i bassi, tutte quelle roba lì, però abbiamo Emi Denaio, Valentina Bellanova, che abbiamo sentito Giulio Marino al basso un paio di pezzi fa, ci sarà Christos Barbas al Nai fra qualche brano, ci sarà insomma, un sacco di gente fantastica che io mi porto sulle spalle per portarvele a voi, però non ho i soldi per portarvele tutti ogni volta. Però se voi mi aiutate comprando i dischi, no, le magliette che sono dei dischi, tutta questa roba qua, io piano piano ve li porto uno e poi torniamo con una band. Dito mi farà un altro trucco ora, che io premo e la canzone è già iniziata, questo non va bene. Siete? Siete? Ho studiato già così parti io! Ci siete? Oh, diciamo, è molto simile alla schiavitù, perché il lavoro dovrebbe essere un'azione collettiva per il bene collettivo. E il lavoro è sfruttamento, sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura. Però bisogna assolutamente, necessariamente partire dal lavoro, perché in questo ambito, in questa sfera in cui il capitale si manifesta nella maniera più violenta, più subdola, più efficace, più distruttiva, più invasiva, fino ad essere percepita questo sfruttamento, questa gabbia, come qualcosa di naturale. Il lavoro di per sé fa schifo, così come spesso in Sicilia, in Italia, a Lampedusa, forse ovunque. Il lavoro è una promessa, è uno scambio. Ci dicono che questa Repubblica sia stata fondata sul lavoro. Invece questa è una Repubblica affondata sul lavoro, naufragata sul lavoro. Il lavoro è, in molti ambiti, il momento in cui il potere si manifesta nella sua veste più diabolica, che è come un grande frattale che, a guardarlo sempre da più vicino, riproduce nel piccolo il grande. Nella realtà in cui io mi muovo posso osservare come la mafia, che è una delle espressioni più limpide del capitalismo, abbia nel lavoro e quindi nella generazione del capitale la sua stessa essenza. La mafia, senza lo sfruttamento del lavoro, senza lo sfruttamento dei beni, dei servizi, senza il ricatto dei lavoratori sui lavoratori, non avrebbe modo di esistere. L'Italia è una repubblica affondata sul lavoro. singolo di Almustachil, il singolo di Almustachil è di carta, ok? Se voi prendete, comprate il singolo di carta che costa quanto vi pare a voi, dentro c'è una roba segreta con tutte le password, da agenti segreti per ascoltare la musica, che è altra ancora, la musica nuova che sto facendo, molto politica, è un gioco di ruolo, no bandcamp, no streaming, no questa roba qua, ci vuole la carta, capito, quella roba lì. Oppure per quelli che come quasi tutti non hanno più neanche un lettore CD, io ci ho pensato, mi sta lungo, ho capelli, i pochi capelli che ho sono bianchi, per cui cosa ho pensato? Che chi cazzo ne frega i CD? Io mi voglio comprare la maglietta del gruppo, allora se ti compri la maglietta di Almustachil c'è il codice di download in FLAC, in WAV, in quello che ti pare a te, di tutto il disco. Okay? La maglietta, c'è anche la canottiera da FIA, c'è tutto, ho fatto da micro S da ragazza a XXXXL da uomo, oppure da ragazzona. Sì, ma sono, tanto non ricordo, la canotta sona, sona, allora, la sona. E che la può fare? No, mia per la canottiera, no, perché sona. Me la metto qua. Ok, allora io vorrei lasciare lo spazio a Turma, ma siccome sento questo grande affetto che mi sta circondando in questo momento, se volete ne faccio un'altra. Sì! Mi dispiace Turma, ma ve li sto scaldando. Siete pronti? Siete pronti? Allora, per il prossimo pezzo, io qui c'è sempre roba che è strana. Che cazzo succede qui? Cancello. Ecco qua. Fuori con sala? Yeah. Allora, il prossimo pezzo sarà sostanzialmente l'unica cover di tutto il concerto, in qualche modo, ma per non essere da solo, è un pezzo rimedico degli anni, 100 anni fa. Io sto facendo musica del Mediterraneo, che sono tre, il metal, da dubstep e il rebetico, questa è la musica dei giovani punk del Mediterraneo da 200 anni a questa parte, ok? Tutti c'è sempre garbato solo quello, o il metal, o il punk, insomma il metal, a seconda se ci sono gli assoli o non ci sono gli assoli, però distorto, forte, ritmato e che si sta tanto male, perché siamo veramente i reietti di sta cazzo. Metal a prescindere! Capito? Sona! Io l'ho fatto tutto per ognuno di voi! Per cui ora vi faccio questo testo rebetico, però non voglio mai fare le cose da solo, allora ho invitato anche un amico. E per quelli che gli garba le cose un po' elettroacustiche, ci ho messo anche i field recordings in un temporale accanto alla finestra di casa mia, ci ho messo lo zoom e si sentiva proprio bene. Vediamo un po'. Senti il rock. No, dai. Ne jamais être où l'on nous attend, de la naissance à la mort. Ne croire en rien sauf en soi et en ses capacités infinies. Ne pas attendre d'être arrivé pour imaginer le prochain départ. Mobilité permanente de l'esprit et du corps. Reconnaître en chaque chose et chaque être vivant la singularité et le point commun qui le réunit. Ne jamais être où l'on nous attend, de la naissance à la mort. Ne pas attendre d'être heureux, ne pas prendre le prétexte d'être triste, ne rien attendre, ni de la naissance, ni de la mort. Thank you. Thank you.